sicuramente è una notizia preoccupante perché arriva alla vigilia della ripresa dei colloqui sul programma nucleare iraniano. Bisognerà vedere poi se questi raid effettivamente ci saranno e come quali obiettivi colpiranno. Si parla appunto delle centrali nucleari. In realtà questi annunci che poi sono venuti in parallelo con gli annunci della Guida Suprema di Khamenei, secondo il quale è molto difficile che ci sia un accordo sul nucleare con gli Stati Uniti in questa fase, fanno capire che in realtà i colloqui sono in una fase di impasse. Colloqui indiretti avviati tra Stati Uniti ed Iran dopo l'insediamento del presidente Donald Trump, che già di per sé il fatto che ci siano dei colloqui è una novità, perché da tempo il negoziato sul nucleare era stato congelato dopo il ritiro unilaterale da parte di Trump nel 2018, e lo stesso Biden ha faticato molto a tornare al tavolo negoziale, considerando il fatto che l'Iran ha continuato a fornire i suoi droni utilizzati da Mosca nella guerra in Ucraina. Però in realtà Trump ha anche detto che un accordo è possibile e vicino, quando ha svolto la sua visita in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi e in Qatar la scorsa settimana. Questo fine settimana proprio dovrebbe esserci il quinto round negoziale, che potrebbe essere ospitato a Roma. Si discuterà delle riserve di uranio e del programma missilistico iraniano. Però in realtà, se vogliamo veramente analizzare questa fase dei rapporti tra Israele e Iran, tra Stati Uniti e Iran, dobbiamo sottolineare che Stati Uniti e Israele hanno sempre di più interessi divergenti in Medio Oriente, perché mentre Israele vuole continuare a fare la guerra su tutti i fronti, pensiamo agli attacchi contro gli Houthi in Yemen, pensiamo all'attacco nella zona del palazzo presidenziale in Siria a Damasco, pensiamo ai raid nella periferia di Beirut in Libano, pensiamo al genocidio, alla pulizia etnica a Gaza in Cisgiordania, e pensiamo al fronte iraniano contro il quale Israele appunto vorrebbe lanciare nuovi raid. Dall'altra parte invece gli Stati Uniti vorrebbero realizzare dei cessati il fuoco. Trump aveva annunciato un cessato il fuoco in Yemen, ha incontrato Mahmoud al-Sharaa, il presidente ad interim siriano, vorrebbe che si realizzasse un cessato il fuoco a Gaza, e anche ovviamente però pensando anche alla sua programma piano di pulizia etnica e deportazione dalla striscia, che evidentemente fa capire che comunque alla base ci sono relazioni molto strette tra Washington e Tel Aviv. E sul nucleare iraniano Trump vorrebbe raggiungere un'intesa inattesa, inaspettata, mentre Israele ancora pensa ad un attacco. Ricordiamo soltanto il fatto che l'anno scorso ci sono stati due raid reciproci tra Iran e Israele, quando la guerra a Gaza, gli attacchi in Libano diventavano sempre più serrati. Quindi un'escalation tra questi due paesi è sempre dietro l'angolo. Netanyahu quanto può tirare la corda con l'amministrazione Trump? Questo è molto difficile dirlo. Pensiamo solo al fatto che Trump ha svolto la sua prima visita in Medio Oriente senza andare in Israele e ha annunciato l'avvio dei colloqui sul nucleare iraniano quando Benjamin Netanyahu si trovava in visita negli Stati Uniti. Quindi è evidente che ci sono delle posizioni divergenti. Più in generale, Netanyahu ha sempre cercato di avere il disco verde di Washington per le sue intenzioni di estendere la guerra all'Iran, e quindi di attaccare l'Iran, svolgere raid e operazioni militari su larga scala contro Teheran, ma questo non l'ha mai ottenuto, perché Trump sa bene, e Washington e le autorità statunitensi sanno bene, che un attacco contro l'Iran da parte israeliana può essere molto pericoloso, può portare a degli effetti catastrofici per tutto il Medio Oriente, ma soprattutto non lo vogliono i paesi vicini, perché tra gli altri sponsor di una fase di dialogo, di riavvicinamento con l'Iran, ci sono per esempio i paesi dove è stato in visita a Trump, a partire dall'Arabia Saudita, passando per gli Emirati Arabi Uniti e il Golfo. Quindi è evidente che ci sono degli interessi divergenti in gioco, e questo non segue il piano israeliano di guerra permanente, di attacco contro tutti e tutti, di mantenere aperti 6-7 fronti, anche l'Iraq aggiungiamo a quelli che abbiamo nominato prima, e quindi evidentemente per Israele bisognerebbe continuare a fare la guerra su tutti i fronti, coinvolgendo anche l'Iran in uno scontro che sarebbe molto pericoloso. Per gli Stati Uniti invece c'è l'interesse a mostrarsi come la potenza che ha raggiunto e ottenuto alcuni risultati in politica estera. Ricordiamo che Trump ha perso molti consensi dopo il suo insediamento, e che ha dovuto anche far fronte a crisi interne, dei uomini che sono stati criticati proprio per il loro approccio radicale nei confronti dell'Iran, e quindi è evidente che vorrebbe invece Trump arrivare ad alcuni risultati risultati. È molto difficile che questo succeda in Ucraina, mentre ci sono delle speranze che accada sulla fronte nucleare iraniano, mentre continuano purtroppo i raid di genocidio a Gaza e la crisi umanitaria che non accenna a fermarsi.